è per te che voglio volare, è per te, per il tuo splendido cuore, è per te tutto questo amore. Questa pioggia di raggi di sole è per te che il cielo si infiamma e nel fiume l'acqua si fa onda, è per te che le stelle illuminano il cielo e la luna ti chiede scusa per non poter essere più vicino. Stella, non perdere tempo, vai tranquilla, abbraccia il mondo. Stella, ma tu stai ridendo, le rose stanno nascendo. È per te che voglio navigare, è per te che voglio imbucare tutte le lettere allo stesso indirizzo, dirti a volte che chi ama è solo un pazzo. È per te che suonano le arpe, i tulipani ballano con le carpe, è per te che una lacrima ti scende giù, un altro sogno, un altro viaggio, decidi. Stella, non perdere tempo, vai tranquilla, abbraccia il mondo. Stella, ma tu stai ridendo, le rose stanno nascendo.